La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Sono la sua schiava. Lui è il mio boss nel lavoro e il mio amante. E io faccio quello che lui dice, senza discutere, in tutto. E questo da 12 anni. Non fiato sul fatto che è sposato, finto marito felice, che io sono quella da nascondere, anche se lo sanno tutti. Questo mi ha reso felice i primi tempi, quando scherzando gli dicevo «Tu Tarzan, io Jane». E per me era proprio come il vero Tarzan. Da qualche anno mi sono resa conto che è solo un debole che fa l'arrogante per nasconderlo. L'obbedienza però è rimasta uguale, anche se non lo stimo né lo amo più come prima. Non sono da buttare. Ho due lauree, sono bella, mio padre è quasi ricco. Ma lui è il mio Tarzan. Anche se probabilmente è solo un disgraziato. Ultimamente ho scoperto che mi tradisce con una ragazza più giovane, che è arrivata da poco in ditta. Tua, Jane. Beata Jane. Quella vera, quella del cinema. Jane era bella, obbediente, muta e felice. Perché Tarzan è meraviglioso. Forte, ingenuo, fedele. Le belve gli si inchinano, le scimmie lo adorano. Dall'Eden a Hollywood, Adamo ed Eva vivono fuori del mondo, prima della caduta, con un vantaggio. Non c'è da rendere conto a qualche dio sospettoso. Perché Tarzan stesso è Dio, e Jane è la perfetta donna oggetto di un uomo oggetto. Nessuno dei due pensa. Sono lì per fornire pura evasione. Era felice Jane, in fuga tra i selvaggi e i caimani. Lui avrebbe provveduto a tutto. Il guaio è però, cara Jane moderna, che tu pensi, e lui non provvede a un bel nulla. Anzi, spegne tutte le tue sicurezze meno una, l'obbedienza. Pensa che l'ultima Jane dei film di Hollywood è morta ormai 30 anni fa. E noi siamo ancora qui, tutte vive. Noi donne intelligenti, impegnate. In rivolta rischiamo di nuovo di essere Jane, di danzare sul palmo della mano di un Tarzan, che però non è più all'altezza. Le intelligenti, le fortunate, sono sempre le più assetate d'amore. E poiché la cultura dell'idolatria maschile è invariata nei secoli, servono sempre un loro Tarzan interiore. Vogliono l'eroe. E lo cercano. In questi poveri uomini paurosi, alla deriva. In un mondo che sta scoppiando, e pur di raccontarti una storia, per paura della solitudine, eccoti schiava, schiava da salvare. Da uno che non può salvare neanche se stesso. Quindi tu sei una schiava di schiavo. Tarzan, quello vero, non è intelligente, ma nemmeno nevrotico. Invece il tuo Tarzan, i Tarzan di oggi, dismesso il leopardo, eccoli vestiti di nevrosi, scontento, mancanza di immaginazione. Tu non hai il diritto di chiamarti Jane, cara amica. Jane, tua sorella 100 volte più fortunata, dalla schiavitù ebbe almeno qualche vantaggio. Faccio la costumista. Ho un'amica, una grande amica. Lavoriamo insieme. Da subito mi è sembrata interessante, piena di un fascino originale. Oggi che tutti vanno avanti a pensieri fissi, con un grande dinamismo spirituale. Ma conoscendola nel lavoro si è rivelata ancora più sorprendente. È bravissima, risolve ogni problema con un gusto infallibile. Severa, spiritosa, profonda. Sapevo che desiderava l'iPad per leggere i libri dovunque e volevo regalarglielo, ma un giorno vado lì e lo aveva già comprato. Mi è rimasto il dispiacere di non averlo fatto io. Credevo ci fosse abbastanza confidenza fra noi per un gesto familiare. Appena fatto un bancomat ero piena di contanti. Estraversa come sono, mi è venuta l'idea di dargli i soldi per l'iPad. Volevo che fosse un mio dono, riparando al fatto che non lo avevo procurato in tempo. Ma lei si è offesa. Ha detto, ma come? Finora abbiamo avuto un rapporto bellissimo, fatto di affinità importanti, e mo, tiri fuori i soldi. Per me quelli non erano soldi, era un simbolo, e pensavo se ne ridesse insieme. Ma per lei è stato un gesto indelicato che sminuiva la nostra intesa. Sarà poi vero che i malintesi rafforzano i rapporti. Ora comunque c'è una scalfittura e un vetro, una volta aggraffiato, non torna più come prima. Beh, senti, non sai con quanto piacere rispondo a questa tua lettera così fuori dal tempo, con sentimenti così poco attuali. Ma beate voi, te e la tua amica, che vi permettete un piccolo 800 privato, una sensibilità squisita mentre il mondo si scanna e i rapporti si fanno sempre più grossolani. Hai ragione tu, ha ragione lei. Avete scoperto un punto dove le vostre sensibilità divergono. Io ti capisco. Io sono nata in Umbria e sono una donatrice molesta. Dove sono nata è il dono importante. Al mio paese si usava, non si andava mai a casa di un altro a mani vuote. Si usava portare sempre qualcosa se si andava a qualcuno. E non erano ancora questi tempi consumistici in cui si comprano le cose. Lì non si comprava niente. Giravano molto le uova fresche, un par di piccioni, i fiori di campo. Mi ricordo la più povera del paese portava dei rametti di maggiorana che coltivava lei, profumatissimi. È che noi estroversi siamo sempre in bilico nei rapporti. Ne facciamo sempre uno di troppo. Con un gesto brusco mandiamo in pezzi sempre qualche vaso cinese. Graffiamo i vetri, graffiamo le persone. Stiamo sempre a ferire senza volere. E poi sempre a rimontare. A rimontare. Sempre un po' sospetti. Ci perdonano, ma restiamo dei pregiudicati. Guarda, io se rinasco voglio essere buddista, ma buddista sul serio, anzi Buddha, amare ma con distacco, impermeabile agli eventi. Ti do un consiglio che io non riuscirei mai a seguire, perché io al posto tuo avrei scritto lettere. Io sono peggio di te, no, scrivo queste lettere inutili, noiose. Se davvero vi volete bene, non vi ammazzate di chiacchiere. E io, e tu, e noi... Meno discorsi fate e meglio è. Ecco, fatevi questo bel regalo, questo sì che è un bel regalo. Parlatene il meno possibile. Zitte. Il vetro è graffiato, ma l'amicizia si rimargina. Ci vuole tempo. Come dice Paolo Conte, ci va il tempo che ci va. E fra un po' vi verrà pure da ridere. Ma beate voi, con questo problema minimo ma non frivolo, tutto dello spirito. Come se foste vicine di casa di Emily Dickinson, invece che compagna di secolo di Emilio Fede. La guardiana del faro. Another party's over and I'm not cold sober. Baby left me for somebody new. I don't wanna talk about it. Want to forget about it. Wanna be intoxicated with that special brew. Chi ha avuto la disgrazia di leggere le ultime lettere di Jacopo Ortis, di Ugo Foscolo? A scuola ce lo mandavano dentro come una medicina e devo dire, riletto dopo, è ugualmente orribile. A parte che è questa cosa molto strana per cui Foscolo scrive 20 anni dopo il Werther e dice di non averlo mai letto, ma è strano perché sembra proprio copiato, ma molto in peggio. Insopportabile Ortis. Il suo suicidio è troppo annunziato. Si capisce subito che ha letto il Werther e che si ammazzerà. Jacopo prende le misure per la fossa fin dalle prime righe, mentre la forza di Werther è di essere spiritoso, innamoratissimo della vita. E quando muore ti dispiace. Ortis invece lo minaccia tante di quelle volte che alla fine non vedi l'ora. Ortis non si rivolge mai ai vivi. È tutto un farneticare ignobilmente retorico e noiosissimo con la natura, Dio, la patria, l'umanità, la morte o tutti scritti maiuscolo e gli scappasse mai un minuscolo. Mentre i dolori del giovane Werther è fatto di persone, di imperfezioni, di cose. Cioè è bello. Senza conoscerlo, Werther liquiderà Ortis dalla prima pagina, anche se lo precede di 20 anni. Ma che è l'uomo che di continuo accusa se stesso? È un gran noioso, Foscolo, fortuna che ci ha lavorato tanto. Dalle ripetizioni del testo pare che non lo abbia nemmeno riletto. Non la finisce mai con l'ultima lettera, con l'ultimo addio. Werther è un personaggio, Ortis è un pupazzo. Pensiamo al finale del Werther. Fu portato a spalla da 4 lavoratori. Non c'erano preti. Beh, è un gioiello di limpidezza, di secchezza, di efficacia. Non una lacrima per Ortis, ma con Werther seppelliscono una parte di te. Perché lui, Werther, prima di spararsi, le ha pensate tutte. Di ucciderla, invece di questo vaniloquio ideale, lui le ha pensate tutte con Carlotta, di ucciderla, di scoparla, di farle fuori il marito. Werther è pieno di voglie e non è un santo. Una notte addirittura si abbandona ad appassionati atti impuri pensando a Lotte. Ma il colmo della faccia tosta, Jacopo lo raggiunge quando si chiede. Verso il finale, la sorgente delle lacrime è dunque estinta, ci credo, dopo 200 pagine di lagne, brutto piagnone. Anche se, se vogliamo, il Werther ha un altro piccolo difetto. Una sola cosa gli manca, lui non ama, lui non è capace d'amore. So come and get me. Says my heart is on an all-time low. So la passione di Werther per Carlotta è tutta reclamata. Lui non ama Carlotta, come tanti anche oggi, ama solo le chiacchiere sull'amore. Werther dall'inizio alla fine non fa che sfinire gli amici. Si lagna della sua sorte infelice e la sua vera passione è quella. Di Carlotta se ne sbatte. Tanto è che appena si allontana da lei, in un batter d'occhio si trova un'altra fanciulla di cui invaghirsi, la signorina von B, e la corteggia, grandissima ipocrisia, parlandole di Carlotta, come sappiamo la più antica delle seduzioni attraverso il racconto di un altro amore. E immediatamente farebbe di la signorina von B la sua Carlotta, se non fosse costretto dall'orgoglio ad allontanarsi da lei solo per vanità, perché la signorina von B, che gli è superiore di rango, lo snobba a un pranzo. È molto curioso, è molto divertente che il martire romantico per eccellenza, il martire del sentimento, muore per un sentimento che non sente. I dolori del giovane Werther è un libro sul narcisismo assoluto. L'ho fatto leggere a un sedicenne di oggi che non legge. Invece è arrivato in fondo entusiasta e mi ha detto: vado pazzo per quello ozioso che passa il tempo a parlare d'amore e quando sarebbe il momento di mettere la testa a partito, pur di non andare a lavorare, si spara un colpo. I'm causing a mild sensation with this new occupation. I'm in the news. I'm just getting used to my new exposure. Coming to my enclosure. And meet my melancholy. Adesso Marco Fabio Apolloni legge un sonetto tratto dal suo libro Er puttaniere arcadico, pubblicato da Ponte alle Grazie. Dunque, Argo nella mitologia classica è un nome di più cose. Per esempio, non lo disse Argo, è Ercane. E questo è Ercane che parla. Una stilla de sangue marimane che pe pietà le purci hanno lassato. Appena anfiato solo, d'odorato, pe sentì sotto arpuzzo de stelane che sempre troppo tardi sei tornato. Ma che cazzo de core alla sancane a guardia de sto sasso spelacchiato senza ombra de padrone e senza pane. Allora si rizzò per mozzicallo, ma c'ebbe forza solo per la rabbia de piagne de morì senza rivallo. All'uomo sfuggì il core come sabbia, ma non c'ebbe coraggio a carezzarlo per paura de prendersi la scabbia. Argo era anche la nave degli Argonauti, che infatti Argonauti si chiamavano. E narra la leggenda che Giasone da vecchio si recasse in riva al mare, vicino alla carcassa della nave che era stata la protagonista delle sue imprese, per piangere le sue sventure. Giasone Vecchio, senza più guadagno, senza moglie né figli per sostegno, senza manco più l'ombra d'un compagno, tornava sempre a piagne sotto al legno della nave con cui prese quel fregno de montone dorato con lo stagno che gli avrebbe comprato tutto un regno se il destino non fosse uno sparagno. Davanti al mare cominciava il fiotto per tutto il giorno, fin dalla mattina, finché de schianto un cascò de sotto la polena de prora sulla schiena de Giasone che ci rimase rotto come novo da beve de gallina. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, sono una delle tante emigrate all'estero per lavoro. Ho incontrato circa 15 anni fa un uomo che è stato cruciale per il mio insediamento in un paese straniero quando avevo 20 anni. All'inizio lo amavo appassionatamente, ma alla lunga sono dovuta scendere a compromessi di convenienza che mi hanno fatto disinnamorare. Lui non ha mai voluto saperne di sposarsi, avere figli. Gli conviene vivere così perché sono anni che non lavora, però è un punto di appiglio straordinario per me che faccio la spola. Io ho avuto varie storie, di cui lui è venuto a sapere, tutte conclusesi male e con il mio ritorno da lui. Adesso ho incontrato un altro uomo, ma ho rovinato il rapporto, presa dalla paura matta che mi abbandonasse come avevano fatto gli altri, e infatti ha percepito questa paura e mi ha lasciata. Io sono riuscita a riacchiapparlo con foto erotiche, facendo molta leva sul sesso, per lo più immaginario, perché ho trascorso l'intera estate qui in Italia e lui nel suo paese. Lui ha messo in chiaro che non c'è futuro, ma ci sentiamo tutti i giorni con un messaggino telefonico e io mi chiedo fino a che punto io possa sperare. Lui è separato con moglie lontana, almeno geograficamente, da cui aveva detto di voler divorziare, ma ora non so più che intenzioni abbia e non glielo chiedo. Trovarmi una sistemazione da sola sembra un'impresa titanica dal punto di vista economico. Continua però questo contatto tra di noi senza che io abbia pretese, che non mi azzardo più a fare e lui tantomeno. Non so che fare, temporeggiare o andarmene via di casa. Spero in un tuo consiglio, Selene. Tu vuoi un consiglio da me? Ma quale consiglio? Non servirebbe a niente, a te servirebbe un lavoro meglio pagato per tornare libera dalla tutela di questo paziente papà acquisito e non essere più costretta a correre da un paese all'altro. Tu, Selene, hai due uomini e nessuno dei due esiste. Uno è un padre non amato, che è un rifugio obbligato. E tu stai con questo qua, ma stai sulla cima della torre e dall'alto ad occhi chi ti possa salvare da lui. Ed ecco che arriva quest'altro, pure lui è mezzo sposato, mezzo divorziando, mezzo lontano, mezzo morto, temperatura corporea non superiore ai 35 gradi, che si rianima meccanicamente come la famosa rana solo per qualche foto erotica. Però sai, poi che ne so io, forse non è così semplice. E chissà quali legami segreti di dipendenza reciproca, di tenerezza, di rancore, quale sentimento morboso e testardo legano te e il primo amante. Forse ti racconti che hai bisogno di lui per una questione economica e non vuoi ammettere invece questo rapporto triste ma profondo senza il quale non puoi stare. Però se non è così, allora io il consiglio ce l'ho, anche se inutile. Un atto di coraggio, ridisegnare tutto, a partire da te. Scusa, ma hai 35 anni. I giochi si potrebbero tutti rifare, potresti rovesciare il tavolo. Osare uscire come Hulk quando sfascia la cassa dentro la quale l'hanno rinchiuso in un pulviscolo di schegge. Tu sei prigioniera di una gabbia finta, perché nessuno ha chiuso il lucchetto da fuori. Nessuno ti costringe, se non questa tua fumosa debolezza. Immortale per me questa frase che mi hanno scritto in un tema quando insegnavo lettere. Un bambino di 13 anni. Da oggi farò quello che voglio, perché so che cosa voglio fare. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, sto cercando da qualche anno, ne ho 32, di mettere da parte le questioni affettive e cercare prima una realizzazione nel lavoro. Ma da circa un anno e mezzo ho conosciuto un intoppo. Bello, simpatico, con qualche cosa simile a me. 18 anni in più e problematico. Più che altro fidanzato, non convivente, senza figli, con l'intenzione di farli, ma difficilmente con la sua fidanzata, visto che non sanno più da tempo cosa sia l'attrazione sessuale. E francamente ci credo, visto che mi pare mi abbia cercato per quello. Salvo poi non avere neanche con me un rapporto completo. Lo attraggo, si lascia baciare, mi racconta di lui, ma quando deve avere un ruolo un po' più attivo si tira indietro. Ed è così in tutto. Ci sentiamo. Poi, dopo qualche volta, io mi arrabbio della presenza dell'altra e così non ci sentiamo né ci vediamo fino a quando non sono io a ricercarlo. È dannoso per me, capacissimo di fregarsene dei miei problemi, ma mi sembra che abbia un fondo gentile, nobile, rintanato da qualche parte e che vorrei ammirare. Mi può rassicurare che non c'è speranza prima che ci perda altro tempo e ci stia ancora piuttosto male? Grazie, Anna. Anna mi fa sorridere, sai, con tenerezza. L'innocenza con cui mi chiedi di decidere per te. Io comunque ti potrei dire qualsiasi cosa senza rimorso, tanto credo che nessuno mi abbia mai dato retta. Ma non te ne darò, posso soltanto osservare che sei un'altra fabbricante di uomini. Quando io dico che la donna è un animale sognante, intendo questo, una creatura come te. E che quando vediamo un uomo e una donna, spesso lui non esiste. È un'illusione, se l'ha inventato lei. Ma quale grande Don Chisciotte ci deve essere in te? Per cercare, come dici tu, qualcosa che è rintanato. È così diabolicamente grande la tua immaginazione che quasi quasi la mancanza di qualità di questo individuo ti sembra una prova dell'esistenza di un tesoro nascosto. Chissà dove. Tu con la determinazione di un pirata che cerca lo scrigno, di un bambino che scavi nel nulla, tu cerchi qualcosa che vorresti ammirare. Tutta questa fatica per riuscire ad ammirare qualcuno che non ha niente di ammirevole. Ammirevole sei tu, che ti butti come Indiana Jones in qualche sterminata regione ignota da scoprire. Quest'uomo non conta. Devi solo sperare di mantenere sempre questa grazia, il desiderio di trasfigurazione. Io non ho risposte, se non una poesia di Archibald MacLeish, poeta americano, dove parla anche di te e di me, ovvero di una persona in pena che scrive e di uno sconosciuto che risponde. E sorride di noi, di te che mi scrivi e di me che ti rispondo. E la poesia si intitola Speech to a Crowd, discorso a una folla. Ditemi, amici pazienti, voi che attendete messaggi, da quale altra riva, da quale straniero, di dove era promessa la parola, chi doveva ammaestrarvi? Voi che ascoltaste davanti a una mangiatoia, che ascoltaste un tempo presso gli oracoli, ora presso le transenne. Chi aspettate? Chi credete vi spiegherà? Ascoltaste per migliaia d'anni e ancora nessuna risposta. Scrittori di lettere notturne a Madonna cuor solitario, ortografi incerti, aprite gli occhi. Vi sono soltanto la terra e l'uomo. Ci siete solamente voi. Nessun altro è al telefono. Nessun altro bisbiglia nell'aria. Nessuno se non voi premerà il campanello. Nessuno sa se voi non sapete. Avete occhi e quello che i vostri occhi vedono è. La terra che vedete è proprio quella che vi sta sotto gli occhi. Il sole è veramente ottimo. Le donne sono belle come le avete vedute. Guardate il mondo che non conquistaste mai. È proprio vero che si può vivere nel mondo disattenti. Perché aspettate di leggerlo in un libro allora? Scrivetelo voi stessi. Scrivete a voi stessi se è necessario. Dite a voi stessi che la terra è vostra, da prendere. In attesa di messaggi dalla tenebra foste poveri. Il mondo fu sempre vostro. Soltanto non volete prenderlo. Wanna be intoxicated with that special brew. So come and get me. Ogni tanto, tra le schifezze che ti colpiscono accendendo la televisione, d'un tratto, quando meno te lo aspetti, c'è qualcosa di bello. Qualche mattina fa, mettendo a posto un armadio, ho acceso il televisore per compagnia, perché su queste mattine cupe d'autunno, ed ecco che mi è apparsa la faccia di Paola Saluzzi a Buongiorno Cielo, questa trasmissione di informazione, varie cose che lei fa. Tempo fa avevamo fatto sentire l'Alexio Magistralis di Terry De Nicolò, la escort barese, che appunto ha mandato su YouTube questa intervista dove lei dice non io la do per soldi, a voi che ve ne frega. No, no, no, fa la sua lezione, dice che tutte devono darla per soldi, che è l'unico modo, questo è il mercato bellezza, devi poter vendere tua madre, camminare sui cadaveri, eccetera. E uno dei motivi per cui mi piace la Paola Saluzzi è che è una creatura che ce l'ha fatta sempre con le sue gambe, cioè è la dimostrazione diretta della fallacia del teorema de Nicolosiano. Ha questa bellezza fiabesca, no? Questi occhioni strani da creatura boschiva. E poi le sono molto grata perché io ricordo quando lei conduceva Uno Mattina, l'estrema libertà di questa giornalista. Io allora andai, era appena cominciata l'aggressione all'Afghanistan ed era tabù questo argomento. Io ne parlai in maniera molto critica, molto violenta, e lei non mi ha mai fermato. E poi ho un altro bel ricordo. Una sera è venuta a casa mia tardissimo perché aveva lavorato fino a un momento prima, sarà stato mezzanotte, e c'era una sedia, come sempre a casa mia, che è tutta dringolante, una sedia mezza rotta, una sedia di ferro, quindi anche difficile da aggiustare. Lei chiede un cacciavite e zac, dopo 14 ore di lavoro, si mette lì e in un minuto ci ha rifatto la sedia nuova. E un'altra cosa, uno vede questa creatura dall'aria superiore che pare che non tocchi terra e dice mamma mia, perché lei non è bella, lei è una bellezza proprio. Dice ma ci avrà dietro legioni di ammiratori al suo servizio. Ecco, io ho sempre adorato il suo spirito di gattara, come dicono a Roma, di quelle creature che raccolgono i cuccioli, li nutrono, li spidocchiano, li sfamano, li scaldano. Ecco, il suo atteggiamento verso i maschi e anche verso gli altri è sempre stato questo. L'ho sempre vista occuparsi di qualcun altro. Mi piacerebbe intervistarla. Non è che la capitaneria di porto potrebbe cercare Paola Saluzzi? Capitaneria di Porto. Come richiesto, la giornalista e conduttrice TV Paola Saluzzi è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto, Paola? Eccomi, Barbara. Senti, ho parlato benissimo di te, ma senza di te, se no ti avrei creato sicuramente imbarazzo. Ti posso riassumere in breve quello che abbiamo detto, che gira una leggenda per cui, almeno da un 17 anni a questa parte, che le donne possono solo vendersi a dei potenti per fare carriera. Ecco, tu sei l'esempio opposto. Com'è la vita di un ribelle naturale, come sei tu? Beh, è la vita di chi vuole riuscire ad arrivare ad un risultato impegnando se stessa con la forza delle proprie idee, con la forza del proprio lavoro e basta. Sai, Barbara, tu ti citi da 17 anni, in realtà sarei molto più ottimista o pessimista, non lo so, dura almeno da 2000 anni, forse anche di più, non lo so. È una regola che ha accanto una sorella che è la sua controregola. Bisogna decidere a quale regola appartenere, non che siamo monache, anzi il contrario. Senti, ma dimmi una cosa, ma c'è un divertimento però nelle difficoltà a rimanere di colpo senza lavoro e poi a reinventarsi tutto? Come hai fatto tu, per esempio? Intanto facendo la lista dei miei errori. Vedi, tu sei la guardiana del faro e io guardo il tuo faro molto spesso quando sono in navigazione, perché così riesco a capire da che parte io stia andando. Ci si ferma, si ammainano anche le vele, si evita di fare in modo che l'eccesso di vento le strappi, si fa l'elenco dei propri torti, di quelli fatti, sì. Perché io ne ho fatti, perché io ho sbagliato nel rispondere in certi modi, ho sbagliato a pensarmi in una certa maniera. Ovvero come? Beh, c'è stato un momento in cui pensavo che tutto mi fosse dovuto. Perché? Perché io ottenevo grandi ascolti e quindi di conseguenza dare a avere il mercato proponesse questo tipo di prodotto. Benissimo, io sono il prodotto e di conseguenza io devo lavorare. Non è vero, noi quando lavoriamo balliamo su un pavimento di carta velina. Magari è tanta carta velina, è tanta, talmente spessa da sembrare anzi quasi elastico e ci aiuta nel movimento, però è carta velina, si può spaccare da un minuto all'altro, da un istante. Anche perché io non ho mai creduto a questa faccenda che la audience governi, nel senso che non è vero, governano altri interessi. Esatto, governano le facce che decidono che debbano governare in quel momento. E allora questo mio atteggiamento, anche fin troppo in certi istanti saccente, Barbara, si è scontrato con persone che non vedevano l'ora che questo atteggiamento prendesse piede. Che non vedevano l'ora di levarti dai piedi, cioè. Sì. Però, il più grande libro scritto per l'umanità, Pinocchio. In Pinocchio c'è scritto tutto. Peccato che ce lo facciano leggere da piccoli. Dovrebbero imporre di portare Pinocchio agli esami di maturità. Con una tesi molto dettagliata su chi siano il gatto e la volpe, su chi sia la faina, su chi sia Melampo, su perché Pinocchio che dice sono innocente, è l'unico che non posso uscire di carcere, perché di carcere quel giorno usciranno soltanto i colpevoli. Cioè, quella meraviglia ci andrebbe spiegata quando siamo grandi. Quando tutto è scritto nella vita che hai di fronte, tutti i personaggi sono ben dichiarati. Se tu fai l'errore di Pinocchio, alla fine ti crescono le orecchie da somaro. E io mi sono ritrovata con le orecchie da somaro, poi però mi sono salvata come? Non ripartirò sapendo di non fare errore, Barbara, ma non farò più gli stessi. E allora piano piano, un pezzo alla volta, non pensando che l'unica televisione fosse quella in chiaro e quella del grande schermo, ma pensando che invece il satellite fosse la cosa più bella, perché stava dando lavoro. Ho pensato al lavoro per il lavoro, non al lavoro per la esposizione mediatica. Lavorare per lavorare. E questo mi ha riportato a lavorare. Ma è vero che ti sei innamorata? È una storia un po' complicata, sì, è vero, mi sono innamorata, lui è meraviglioso, credo che sia più bello di un principe che sia caduto da un libro e abbiano chiuso il libro e poi lui se non sia potuto rientrare dentro il romanzo, però, c'è sempre un però, mannaggia, è tutto complicato, è lui che vive lontano, è io che c'ho sempre da fare, e non si è capito, è la ex. Come ogni sano film, non può andare bene dal primo quarto d'ora. Ah, sì, tu sei uno specialista di cose difficili, impossibili, certo. Detto, gli ho detto, la prossima vita io ti incontro al liceo, mannaggia, sì. E mi devi corteggiare da lì, e non mi devi mollare un minuto, da lì però, non voglio complicazioni di sorta, non le voglio. Poi mi domando, ma se avessi queste complicazioni, mi divertirei? Non lo so, l'unica cosa veramente clamorosa che abbia fatto, che rappresenta una rivoluzione copernicana, è che io non faccio la gattara. Io voglio essere coccolata, non coccolo più. È cambiato. Il cucciolo da curare perché fuori fa freddo, questa volta sono io. Il gatto da curare, stamare, sono io. Coccolare, sono io. Miau, miau, miau. La guardiana del faro. Barbara! Sei tornato! Eccomi di nuovo a casa! Pinocchio è tornato dal suo falegname, senti, ma... E che bello! Un mazzo di peperoncini, una parte arancione e una parte amaranto. Sono bellissimi, li hai vero? Coltivati tu? Li ho raccolti lì in California. E si possono mangiare? Sì, sì, sono commestibili, sono piccantissimi, attenta. Quindi non sono laccati quelli che poi ti avvelenano? No, non sono laccati. Senti, tu sei andato in California alla Fiera dell'Agricoltura. È la prima volta che ti muovevi da Finisterre. Com'è andato il viaggio? Ma mi è piaciuto molto anche l'aereo, era la prima volta. Hai avuto paura? Ma no, è un po' come stare sulle giostre. Poi anche questo fatto di vedere la Terra dall'alto, le stelle più vicine, molto bello. Beh, devo dire, a sentirti parlare sembra che tu sia andato sulla Luna, invece sei andato soltanto in California. Soltanto? Per me è lontanissimo, è l'altra parte del mondo. Senti, Robert, mentre non c'eri, e come sempre, prustianamente, quando le persone non ci sono, poi ci mancano molto, avrei voluto farti una domanda. Si può usare l'astrologia per capire quale può essere una potenziale affinità tra le persone o non affinità? Beh, ci sono un sacco di segni che indicano compatibilità o incompatibilità fra i segni zodiacali. Per esempio, io non l'ho mai fatto apposta, ma nella vita mi sono innamorata sempre dei cancri e dei tori, me ne sono accorta dopo. E ho avuto delle amicizie, delle grandi amicizie con gli arieti, che è poi il mio segno. Puoi dirmi qualcosa a questo proposito? Certo, io ne parlerei intanto come compatibilità fra i segni, parlando di elementi, perché ogni segno poi appartiene ad uno dei quattro elementi, che sono la terra, il fuoco, l'aria e l'acqua. In questo siamo rimasti proprio presocratici. Sono gli elementi della natura e questi danno delle caratteristiche di base al segno per cui li rendono compatibili o incompatibili fra loro. E cominciando a parlare anche del tuo segno, che è l'ariete, dei segni di fuoco. Fuoco è l'elemento un po' più dinamico, un po' più energico, passionale. Quindi i segni di fuoco sono spesso indomiti, sono dei grandi iniziatori. L'ariete è l'amante delle nuove imprese, il segno bambino. A volte anche un po' impaziente o difficile da tenere a freno. Si potrebbe dire che è il fuoco che accende. Invece il leone, così megalomane e generoso, ma anche un po' accentratore e vanesio, è il fuoco che scalda e illumina, un po' come il fuoco del sole. Poi c'è il sagittario, che è curioso e aperto alle novità ed è sempre alla ricerca di nuove cose da imparare o nuovi territori da esplorare, ed è il fuoco che indica la direzione, il fuoco del faro. Il Sagittario è un centauro. Il Sagittario è un centauro e la sua freccia puntata verso l'alto è proprio il simbolo di questa continua esplorazione. Un'amica Sagittario mi diceva, ecco, la mia parte superiore è tutta votata alla scienza e poi per fortuna ho questa parte cavallina, ho questa parte carnale. Questa è un'immagine, veramente un'immagine giusta, nel senso che il Sagittario ha una doppia anima, un'anima che è completamente votata alla scoperta, è molto curioso, è perennemente alla ricerca di nuove cose che lo elevino, ed è la parte della freccia verso l'altro. Però dall'altra ha anche una aderenza al concreto che lo rende quasi un segno di terra, infatti è la parte cavallina che è proprio materica. Bella questa immagine, è bellissima. E i zoccoli percorrono la terra. Indefessamente. E Chirone, il centauro, è il grande guaritore, la medicina è proprio il connubio tra la ricerca e la materia, probabilmente. Oh, poi invece i segni di terra sono più solidi, più concreti, più pratici, molto più con i piedi per terra, e sono il Capricorno, che è il segno più attento ai progetti di lungo termine, più lungimirante, più è un po' la terra delle fondamenta, la terra della struttura dell'edificio. Poi c'è il Toro, che invece è prudente, è stabile, è un grande economo, anche molto attaccato ai piaceri della vita, che è un po' la terra del mattone, le materie prime. E poi c'è la Vergine, che invece è molto attenta ai dettagli, molto puntigliosa, anche un po' polemica, che è, se vogliamo, la terra dell'architetto, quella che, diciamo, sovrintende il progetto di costruzione. Già per fare un primo paragone tra questi due elementi, sicuramente ad un segno di terra un segno di fuoco sembrerà eccessivamente irascibile, eccessivamente passionale, eccessivamente energico, laddove invece al contrario un segno di fuoco, un segno di terra sembrerà forse troppo concreto, troppo attento alla materialità delle cose. Tra gli elementi ci può essere anche una specie di dimorra cinese, perché immaginiamoli l'uno con l'altro, il fuoco e la terra per esempio. Potrebbe succedere che la terra spenga il fuoco e quindi che l'eccessiva concretezza della terra soffochi un po' quella che è l'energia e la spiritualità del fuoco. Però può succedere anche il contrario, cioè che il fuoco cuocia la terra, per cui che la terra, per, diciamo, difendersi da tutta questa eccessivo dinamismo, si arrocchi di più sulle sue posizioni, però la terra cotta è più dura, ma se cade si spacca. Quindi, diciamo, questo può a volte mettere fortemente in crisi la terra. Ma per esempio prendiamo la morra zodiacale dei segni di fuoco con i segni d'aria, che invece sono i segni più distaccati, più logici e più riflessivi. Sicuramente la combinazione è buona, perché l'aria tende ad alimentare il fuoco e quindi farlo scoppiettare in modo più vitale. Il fuoco tende a scaldare l'aria e quindi tutto sommato a renderla un po' meno fredda e calcolatrice, e renderla anche più dinamica, più in movimento. Quindi sicuramente fuoco e aria sono due elementi compatibili. Fuoco e acqua è più difficile, perché là i segni d'acqua rappresentano emotività, sensibilità e intuitività, però sono appunto molto emotivi e molto riflessivi. Il fuoco è estremamente vitale, per cui succede che il fuoco possa bollire l'acqua, quindi in qualche modo trasformarla in un elemento che non è il proprio, snaturarla in qualche modo. Così come l'acqua può ritenere che il fuoco è un po' insensibile rispetto alla sua energia, alla sua vitalità, a volte può ritenerlo poco attento alle cose della sensibilità, poco riflessivo. Una secchiata d'acqua sul fuoco lo spegne, una fiamma sotto l'acqua la bolle, che non sono due immagini, diciamo, che evocano bella compatibilità. Allora, invece, rispetto alla compatibilità dei segni d'acqua, che sono il Cancro, lo Scorpione ed i Pesci, e i segni d'aria, che sono l'Acquario, la Bilancia ed i Gemelli, sicuramente anche qui c'è una certa compatibilità. L'aria nell'acqua crea effervescenza, crea bollicine, rende i segni d'acqua più divertiti, più alleggeriti, più dinamici. Dall'altra parte però l'aria non si trova a suo agio in mezzo all'acqua, per cui la logica in mezzo all'emotività pura non si trova molto a suo agio, per cui tende a risalire in superficie, le bollicine tendono a ritornare a galla e a unirsi all'altra aria, per cui sicuramente qui vedo una diversità, ma di opposti che però possono andare bene insieme pur dialogando con lingue diverse. E da tutto questo mi puoi suggerire un abbinamento perfetto sulla carta, naturalmente sulla carta astrale? Ma un abbinamento perfetto secondo me potrebbe essere tra Acquario e Leone. Il Leone, abbiamo detto, segno di fuoco, quindi molto egocentrico e accentratore. L'Acquario, che in un'altra maniera mira a stare al centro dell'attenzione, è comunque l'aria che unisce, diciamo, il mondo dell'aria delle idee.